Un libro ci salverà. I libri che mi hanno cambiato la vita? Certamente Il Conte di Montecristo, letto e riletto più volte nonostante la mole, perché mi ha fatto capire che se una persona vuole qualcosa, la può ottenere. Questo è quanto ci scrive Ginevra, che ha così aderito all'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino, Un Libro ci salverà. Vi stiamo chiedendo se c'è un libro nella vostra vita che vi ha aiutato a superare un momento difficile o semplicemente un periodo noioso. E Ginevra ci scrive anche che il libro che ha salvato un po' delle sue vacanze da adolescente è stato Le avventure di Tom Sawyer. Mi faceva sognare, ha scritto ancora Ginevra, un contatto con la natura, una libertà e una sfacciataggine che non ho mai avuto. La stessa domanda noi l'abbiamo rivolta a Daria Bignardi, nota conduttrice televisiva e appassionata di libri. Sentite un po' cosa ci ha risposto. Tutti i libri cambiano la vita in un certo senso, però un libro che sicuramente ha avuto un'influenza su delle decisioni anche importanti della mia è stato probabilmente Il seminario sulla gioventù di Aldo Busi. Ricordo di averlo letto su un pullman che faceva un viaggio interminabile, un ritorno dal mare a Milano di 4, 5, 6 ore. Lessi Il seminario sulla gioventù di Busi, che tra l'altro è un romanzo veramente molto molto bello e che racconta la storia comunque di questo ragazzino che fa il ragazzo del bar e che ha mille problemi, mille handicap, prospettive incerte e che riesce poi a fare lo scrittore. Mi ricordo che pensai, beh, se ce l'ha fatta lui, forse ce la posso fare anch'io, e il giorno dopo aver letto questo romanzo decisi che sì, avrei lasciato il posto sicuro nell'agenzia pubblicitaria e cercato di entrare in un giornale, cosa che poi mi riuscì insomma sicuramente fu un'influenza benefica quella del seminario sulla gioventù. Tantissime le mail che stiamo ricevendo, impossibile naturalmente leggerle tutte. Leggerò quella di una ragazza che si firma Nocciola e che scrive: un libro claustrofobico per una vacanza claustrofobica, The Green Mile di Stephen King. Ero su una barca a vela di neanche 10 metri con equipaggio composto da 3 uomini più una cambusiera, alias la sottoscritta. Avevo scoperto al quarto giorno di patire il mal di mare. Gli unici momenti di sollievo furono i tuffi nell'acqua fredda e trasparente della Corsica e le immersioni nelle pagine oscure e mantriche del re. Naturalmente Stephen King. Un libro magnetico, ci scrive Nocciola, indissolubilmente legato ad una vacanza difficile da dimenticare. E ancora, mi salva tutti i giorni la vita, essendo per me come un breviario, Il Meridiano Mondadori, tutte le poesie di Emily Dickinson. Così ci scrive Luciana. Nei 1775 frammenti o tessere è racchiusa tutta la sapienza del mondo e il destino di ogni essere umano. Ma c'è un libro che ha salvato la vita o semplicemente l'ha cambiata per Federico Basso, comico di Zelig Off? Sentiamolo. Il libro che ho scelto io è Lucky Man, un uomo fortunato di Michael J. Fox. E in questa autobiografia lui si racconta e racconta soprattutto quello che è stato il suo percorso dal 90 ad oggi, quando improvvisamente gli hanno diagnosticato il morbo di Parkinson e ha dovuto fare i conti con questo grosso cambiamento all'interno della sua esistenza. Questo libro mi è capitato tra le mani in modo assolutamente casuale, perché ero alla cassa del supermercato, come al solito in coda, in attesa, ed era stato abbandonato, come capita spesso per molti oggetti della spesa, tra in mezzo alle caramelle, dolciumi e tutto quanto. E dalla copertina lui c'è questa foto in cui di tre quarti sorride guardando veramente il lettore dalla copertina, per cui ho cominciato a leggere le prime pagine mentre in coda, non sono più riuscito a staccarmi da questo libro ed è un libro che occupa sicuramente un posto privilegiato nella mia libreria. E allora, se volete aderire a questa iniziativa di Radio 24 in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino, Un Libro ci salverà, potete ancora scriverci delle mail per una settimana agli indirizzi leggo@radio24.it oppure bellezza@fieralibro.it. E poi ci sarà un appuntamento, potremo incontrarci di persona proprio alla Fiera di Torino, parleremo dei libri che vi hanno salvato la vita, leggeremo alcune delle vostre mail e faremo la stessa domanda ad alcuni scrittori che parteciperanno appunto a questo incontro. L'incontro è per domenica 11 alle 11, anche semplice da ricordare. Vi aspetto dunque tutti alla Fiera del Libro dall'8 al 12 maggio. Un saluto da Alessandra Tedesco.